Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Io penso è uno scherzo, sorride, mi alzo, le vado lì vicino. Ero contento, le dico: non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, non ricordo. Sai cosa mi dice? Neanche mi guardava, beveva il cappuccino, io non so con chi parlava. Dice qualche cosa, qualcosa ti avranno detto, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri. Puttana, puttana, puttana la maestra, puttana, puttana, puttana la maestra. Io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco, bianco come un vuoto per 20 anni nel cervello. Poi io ho pianto, non so per quanto ho pianto, su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini e non lasciatela negare. Prendetene la mano e portatela via lontano. E datele i baci, datele carezze, datele. Cadono le stelle, è buio e non ci vedo, e la primavera è come l'inverno, e il tempo non esiste, neanche l'acqua del mare, e l'aria io non riesco a respirare. E a 12 anni ero quasi morto, ero in ospedale, non mangiavo più niente, e poi pulivo i bagni, i vetri e pavimenti, per 6-7 anni, 600 metri quadri, vai, vai, vai, vai. E poi io mi son salvato. Lì ci sono i giochi, se vuoi puoi giocare. Il padre è solo un uomo, gli uomini son tanti. Scegli il migliore, seguilo e impara. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. E questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo: viva Francesco. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini e non lasciatela negare. Prendetevi la mano e portatela via lontano. E datele i baci, datele carezze, datele tutte le energie. Venite bambini, ditele che il mondo può essere diverso. Tutto può cambiare, la vita può cambiare, può diventare come la vorrà inventare. Ditele che il sole nasce anche in inverno, che la notte non esiste, guarda la luna. Ditele che la notte è una bugia, che il sole c'è anche c'è.